quando si potrebbe chiudere. Per la riforma del mercato del lavoro ci sono tensioni in questo momento, soprattutto con Rete Imprese Italia. Vincenzo Miglietta in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo accelera dunque sulla riforma del lavoro. Dopo l'altalena degli ultimi giorni, infatti, lo stesso Presidente del Consiglio Monti ad intervenire, sua la firma nella convocazione dei parti sociali per il prossimo martedì, sue le parole nella nota di Palazzo Chigi. Il governo, viene spiegato, ha sempre considerato la riforma del mercato del lavoro una priorità della sua azione, nonché uno strumento essenziale per offrire nuovo impulso alla crescita del Paese, e auspica un pieno accordo entro marzo. Clima più disteso oggi, dopo le tensioni di inizio settimana, già ieri si respirava comunque un'aria diversa, soprattutto nel sindacato. Mi pare che stiano maturando cose positive. Il commento del leader della CGIL, Susanna Camusso: se il governo sarà flessibile, un accordo è a portata di mano. Le parole di Bonanni, CISL, oggi Angeletti, Will, spiega: ci sono state delle disponibilità diverse, migliori rispetto all'ultimo incontro, il che ci fa ben sperare sulle possibilità di avere alla fine un'intesa. Diverso il giudizio delle associazioni che aderiscono a Rete Imprese Italia. Da questa viene spiegato che qualora aumentasse il costo del lavoro per le piccole e medie imprese, potrebbe essere deciso di disdettare i contratti collettivi di lavoro. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Nel servizio ascoltiamo i contenuti di questo possibile accordo. Pochi dettagli, ma quanto basta per tracciare il quadro. Sugli ammortizzatori sociali si ammorbidiscono le posizioni. L'entrata in vigore dei nuovi strumenti andrebbe a regime nel 2017. Resta in piedi la cassa integrazione, ma solo per coloro che sono destinati a rientrare in azienda. Continuerà a vivere anche la cassa straordinaria, ma solo in caso di ristrutturazione o riconversione. Finisce in cantina l'indennità di mobilità. Al suo posto il nuovo assegno per i disoccupati. Rispetto alle prime ipotesi, 1.100 euro lordi per 12 mesi, ridotti poi ogni 6, dovrebbero essere rivisti al rialzo sia gli importi sia la durata. Per il periodo di transizione si sta studiando uno scivolo verso la pensione per i lavoratori anziani, sostenuto dai contributi aziendali. Il vero nodo per gli ammortizzatori resta la ricerca delle risorse. Il governo lavora ancora per ridurre l'impatto sulle piccole imprese. Oggi gli artigiani pagano come contributo per la disoccupazione involontaria lo 0,4% del monte retributivo. Con la riforma si troverebbero a pagare l'1,3%. Vista la disponibilità dell'esecutivo sugli ammortizzatori, i sindacati hanno allentato la presa sull'articolo 18. L'intenzione del ministro Fornero e del premier Monti è quella di limitare il reintegro obbligatorio alla sola discriminazione. Per i licenziamenti per motivi economici ci sarebbe l'indennizzo. Negli altri casi la decisione spetterebbe al giudice. Resta aperto il capitolo sui contratti. Si punta a un contratto unico prevalente con controlli più severi sugli abusi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di riforma del mercato del lavoro si sta parlando in questi minuti a Roma, al convegno sul decennale dalla morte di Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna. Uno dei relatori è l'ex ministro del lavoro e senatore Maurizio Sacconi, che è al telefono con noi. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Allora, le sembra che quello che sta emergendo da questa riforma del mercato del lavoro sia anche nel solco di quello che scriveva e sosteneva Biagi? Non so ancora dirlo della riforma, perché i suoi contenuti sono ancora incerti e oggetto di negoziato, ma certamente ciò che ispira questa riforma è il libro bianco che Marco Biagi produsse 11 anni fa, con la fondamentale intuizione che il lavoratore deve essere protetto nel complesso del mercato del lavoro e non necessariamente o rigidamente nel singolo posto di lavoro, posto che questa occupazione si può consumare anche per ragioni inevitabili, oggettive. E quella intuizione è alla base ancora di questo ulteriore intervento riformatore. Come conciliare quindi la necessaria flessibilità organizzativa delle imprese e la oggettiva variabilità della vita delle imprese con la sicurezza per i lavoratori, che può essere e deve essere garantita non solo dal sussidio, ma da veri servizi che lo accompagnino ad un'altra occupazione. E grazie all'ex ministro del lavoro e senatore Maurizio Sacconi per essere stato con noi, ospite del giornale radio. Noi parliamo adesso invece del ministro del lavoro Elsa Fornero, che è intervenuta oggi sui contatti avuti nelle settimane passate con la Fiat per verificare le voci riprese dalla stampa sulla possibile chiusura di stabilimenti industriali. Sentiamo. Mi sembra, avendo letto la richiesta di informativa, che questa sottenda una visione delle relazioni tra governo e imprese che non appartiene a questo governo. Noi pensiamo che le imprese, e in particolare le imprese industriali, siano vitali per l'economia del Paese, ma non pensiamo che spetti al governo dire alle imprese che cosa debbono o non debbono fare, e non pensiamo che spetti al governo aiutare, secondo meccanismi del passato, che peraltro non sono più consentiti in ambito europeo, di appunto aiutare le imprese a tirare avanti questa, in maniera magari galleggiando, che non è conveniente per l'economia, non è conveniente per l'occupazione, non è conveniente per la sostenibilità e per la economicità proprio delle produzioni. Tutto questo alla vigilia dell'incontro tra Sergio Marchionne, John Elkann e il Presidente del Consiglio Mario Monti. Ci colleghiamo con Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, che segue le vicende di Fiat. Andrea, innanzitutto buongiorno, e ti chiediamo che cosa ci si attende da questo incontro. Beh, quello che potrebbe arrivare di nuovo forse è qualche dettaglio in più in termini di prodotti e di tempi sugli investimenti di Fiat in Italia. La Fornero stamattina ha ribadito le rassicurazioni che il gruppo Fiat ha dato sulla non chiusura di stabilimenti e sugli impegni presi in passato. Altre volte ricordiamo che in incontri ufficiali di questo tipo, con il Presidente del Consiglio, comunque col governo, Fiat si era presentata con programmi abbastanza dettagliati, aveva dato una serie di informazioni più dettagliate, quindi potrebbe, ma non è detto, venire fuori qualcosa di questo tipo. Ricordiamo che di recente Sergio Marchionne si è sempre un po' irritato di fronte alle richieste di dettagliare investimenti, tempi, modelli, dicendo che sono molto legate ai tempi dettati anche dai mercati e al fatto che i mercati non vadano bene. Quindi comunque diciamo che quello che potrebbe esserci è sicuramente quello. Per il resto, la Fornero l'ha detto stamattina, ma la Fiat stessa lo aveva più volte ripetuto, non le servono o non vuole gli incentivi che qualcun altro aveva chiesto per dare una mano al mercato dell'auto. Diciamo che la linea di Sergio Marchionne negli ultimi anni è stata quella appunto di non chiedere particolari interventi al governo, e credo che la linea rimarrà anche domani questa. Vedremo dunque che cosa succederà domani. Grazie anche ad Andrea Malan. Intanto il governo è stato battuto nell'aula alla Camera su un ordine del giorno della Lega al decreto legge in materia ambientale. Il testo di Claudio D'Amico sui sacchetti di plastica biodegradabili è stato approvato con 211 sì, 201 no e 83 astenuti, malgrado il parere contrario appunto dell'esecutivo. Tutto questo a poche ore da un importante vertice di maggioranza che si tiene questa sera. Il commento di Stefano Folli. Sarà un vertice spinoso, ma non credo che ne nasceranno problemi troppo seri per il governo. I partiti non possono permettersi altro che marciare su questo stretto sentiero. Il lavoro mi sembra che ci siano delle schiarite, e si parla di un accordo possibile, riguarda soprattutto un tavolo che riguarda le forze sociali, non riguarda i partiti in senso stretto. Il nodo di stasera riguarderà soprattutto la RAI, io credo. La RAI che però non è tale da poter mettere davvero, da poter provocare una frattura tra i partiti, quindi penso che si troverà un compromesso sulla gestione della RAI. Non dobbiamo aspettarci che il modo di governare la RAI e di rimettere in carreggiata possa essere trovato stasera però. A gennaio il debito pubblico italiano è aumentato di 37,9 miliardi rispetto al mese precedente, portandosi a 1.935,8 rispetto ai 1.897 registrati a dicembre 2011, dato che emerge dal supplemento al bollettino statistico di finanza pubblica della Banca d'Italia. E veniamo invece a quello che scrive la Banca Centrale Europea nel suo ultimo bollettino. I due maxi prestiti a lungo termine sborsati dalla BCE a dicembre-febbraio potrebbero aver contribuito a contenere gli effetti di contagio della crisi del debito sovrano. Per capire cos'altro c'è in questo bollettino, ci colleghiamo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Il primo messaggio della BCE appunto è questo, una risposta in fondo alle critiche che hanno fatto i tedeschi nei giorni scorsi. Le due operazioni di rifinanziamento delle banche sono servite soprattutto a stabilizzare la situazione sui mercati finanziari e a comunque a impedire un credit crunch più grave di quello che già non sia in corso. Gli altri elementi sono un po' noti, la revisione delle previsioni sia per l'economia leggermente al ribasso, la crescita che la BCE si aspetta che sia del meno 0,1% quest'anno, e leggermente al rialzo l'inflazione che resterà superiore al 2% anche per tutto il 2012, in parte per l'effetto noto dell'aumento del prezzo del petrolio, in parte in alcuni paesi fra cui l'Italia anche per l'aumento delle imposte indirette, quindi in particolare dell'IVA. Questi sono gli elementi principali, non c'è alcun messaggio nuovo, salvo che la BCE registra anche che l'Italia è il paese dove negli ultimi mesi, da novembre in poi, lo spread rispetto alla Germania, quindi il differenziale di rendimento del suo debito, è diminuito più che altrove. E questo è sicuramente un ottimo segnale, grazie ad Alessandro Merli. Si parlava di questioni che riguardano anche l'inflazione e appunto gli aumenti di IVA, accise e via dicendo, è ancora record per il prezzo della benzina. Piceno Ovest, tratto marchigiano della A14. Questa mattina la benzina verde servita costa 2 euro e un centesimo. È il nuovo record italiano dopo che ieri per la prima volta nella storia il carburante aveva sfondato la soglia dei 2 euro al litro, sempre nelle Marche, lungo la stessa autostrada. Soglia in realtà soltanto psicologica, perché in concreto cambia poco o nulla, il pieno resta sempre un salasso. Con le stime delle associazioni dei consumatori che arrivano fino a indicare 9,8 miliardi di euro l'extragettito per lo Stato negli ultimi 12 mesi. Il peso del fisco è determinato, con accise nazionali e IVA che pesano per oltre la metà del prezzo finale. A questo, nelle Marche si aggiunge l'onere aggiuntivo dell'addizionale regionale, portata sui livelli massimi per ripristinare i danni dell'alluvione 2011. Così in regione ci sono costi aggiuntivi per 9,1 centesimi al litro e gli automobilisti, se possono, fanno il pieno altrove. Oggi arriveranno i dati sui consumi petroliferi di febbraio. Tra listini impazziti, stop dell'autotrasporto e nevicate, si annuncia una caduta senza precedenti. Luca Orlando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alla situazione dei mercati finanziari. Abbiamo sentito poco fa della Banca Centrale Europea che segnalava come l'Italia, insomma, avesse fatto grossi progressi, anzi i maggiori progressi in Europa dal lato dello spread. Deborah, come vanno le cose oggi? Eh sì, lo spread continua a scendere a 284 punti base. Questa mattina ancora conferma i suoi minimi da fine agosto e quindi ha cancellato gli ultimi mesi autunnali vissuti davvero sull'otto volante per quello che riguarda il differenziale di rendimento fra titoli italiani e titoli tedeschi sulla scadenza decennale. Oggi le borse europee sono però piuttosto deboli dopo il rally delle ultime sedute, sono penalizzate dalla decisione di Fitch, l'agenzia di rating, di tagliare l'outlook della Gran Bretagna da stabile a negativo, confermando però il rating AAA. I listini sono anche in attesa di una serie di dati statunitensi che arriveranno oggi, ce ne sono diversi, ci saranno ancora delle statistiche relative all'andamento dell'occupazione americana, i sussidi settimanali in particolar modo, e poi l'indice manifatturiero Empire State che misura l'andamento del settore manifatturiero appunto nell'area di New York. Milano sta guadagnando lo 0,18%, è arrivata però a guadagnare lo 0,7%, poi ha rallentato il passo, le altre borse sono sulla parità con l'eccezione di Francoforte che segna più 0,3%, bene a Piazza Affari STM, rialzo di quasi 4 punti, Autogrill più 3,58%, TOZ più 2,38%, bene anche i titoli legati al comparto petrolifero, Saipem più 1,57%, Eni più 0,99%, mentre scendono in pregilo meno 2,51% i titoli delle banche popolari, tutti quanti, e per ora è tutto. In primo piano in questa edizione di GR24 la riforma del mercato del lavoro, l'accordo è vicino anche se c'è la protesta di Rete Imprese Italia che teme un aggravio dei costi per le piccole e medie imprese. Martedì 20 l'incontro con Monti che dovrebbe portare appunto a una chiusura dell'accordo. La Banca Centrale Europea con il suo bollettino dice che è stato impedito il contagio della crisi e in l'Italia ha avuto il primato per quanto riguarda lo spread, l'abbassamento dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. A Brescia è stato arrestato un ragazzo di 20 anni, un marocchino, a quanto pare si addestrava per atti di terrorismo, di questo parleremo tra poco.